got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu. Du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. Afin de te voir même dans un sommeil éternel. Benvenuti a Indovina chi viene a cena ancora una volta allo spazio di Radio 24 dedicato alla cucina, ai sapori, ai gusti per parlare di identità e migrazione. La musica con la quale vi abbiamo accolti in questa puntata la conoscerete perché è un singolo in vetta alla classifica italiana dei singoli ed è una canzone di un artista francese congolese. Si tratta di Maître Gims, un ragazzo di 29 anni franco-congolese arrivato a 2 anni in Francia dal Congo con la sua famiglia come clandestino. Non avevano i documenti e tuttora Maître è in attesa di avere la cittadinanza francese. Anche questo è migrazione. Per tutta la puntata ascolteremo le musiche di questo cantante franco-congolese e invece noi andiamo in Calabria per raccontarvi le storie di oggi. Andiamo a Rosarno. Lo ricorderete, alcuni anni fa c'era stata la rivolta dei braccianti di colore di Rosarno, per lo più africani che si arrivano nella zona per fare i raccoglitori di arance e c'era stata una rivolta, erano stati sottoposti ad aggressioni e avevano risposto in maniera violenta 6 anni fa. Da allora cosa è successo? Don Roberto Meduri, parroco di Rosarno, se n'è occupato, ha creato una rete di assistenza e accoglienza per loro, ma la situazione è davvero tesa e ancora molto difficile. È così, Don Roberto? Che cosa è successo in questo mese? Effettivamente è dal 6 dicembre che noi un po' subiamo queste aggressioni che veramente non sappiamo cosa pensare. È partito, c'è un riferimento, potrebbe essere quello del 6 dicembre. Il 6 dicembre c'è stata una partita e come l'anno scorso ci hanno fatto delle dimostranze, sono entrati in campo. Anche una partita della squadra di migranti che lei ha organizzato, sì, a Rosarno. Anche i nostri giocatori hanno risposto purtroppo con la violenza, alla violenza, e quindi un po' si sono azzuffati. E poi da lì, ogni settimana c'è stata un'aggressione così spontanea, ma in un territorio, in un clima già abbastanza teso. Mentre quindi quante aggressioni hanno subito questi migranti africani che lavorano nelle campagne di Rosarno in un mese? Le aggressioni da pronto soccorso sono state 6. 3 hanno avuto dei colpi in testa, 2 hanno avuto dei punti in testa, un altro al petto con una spranga, sempre un bastone, un pezzo di tubo, qualcosa del genere. La dinamica... succede questo, che una macchina li accosta mentre loro sono da soli e con un legno, con un bastone li colpisce o con un coltello. È sempre la stessa auto? I ragazzi dicono più o meno sì, cambieranno la macchina, 2 macchine, ma sempre. E sempre le stesse persone che aggrediscono? Sì, abbiamo fatto le denunce lì all'ospedale mentre portavamo i ragazzi, ma non era successo nulla. Quando il 27 i ragazzi, dopo l'ennesima aggressione che hanno subito, già l'avevano detto tante volte, erano scesi in strada, però lì nella Tendopoli. A protestare. A protestare, hanno buttato i cassonetti della spazzatura, hanno fatto una barricata per dire di qua non passa nessuno, non siamo sicuri nella tendopoli perché passavano passando ste macchine e loro dice ci aggrediscono, no? Quindi hanno fatto sta barricata e stavano, volevano scendere a protestare nel paese e allora siamo riusciti a così amichevolmente a rimettere tutto nel senso nell'ordine, a calmarli. A calmarsi, anche se poi la mattina si era ripresentata l'occasione loro di scendere in piazza perché erano stanchi, anche perché da mesi non avevano le luci, né in questo baraccopoli Tendopoli non c'erano le luci. Poi alla fine anche la questione delle luci si è risolta perché era un bagno che era andato in cortocircuito. È vero che vivono in questa Tendopoli in situazioni di degrado, senza elettricità, senza servizi igienici? In quanti vivono lì? Il campo era stato pensato all'epoca, dopo il 2010, avendo letto che nel territorio ce n'è, come dire, una mappatura, non si poteva fare perché questi ragazzi abitavano in delle baracche che costruivano, in delle fabbriche che occupavano e quindi erano sparpagliati ed erano, come dire, non si poteva dare loro un aiuto. Si era pensato di fare una prima Tendopoli, un campo container a Rosarno, mentre a San Ferdinando la Tendopoli. All'inizio ha funzionato, poi gli immigrati sono triplicati e quindi hanno iniziato di nuovo a costruire nei paesi, vicino nel paese, intorno dove c'erano le campagne e da lì hanno distrutto la prima baraccopoli che era diventata anche lì non funzionale. E hanno creato la seconda, sempre come qualcosa di provvisorio per poter risolvere la situazione in un altro modo. Alla fine invece è già da 5 anni che ci sono queste baracche, Tendopoli, perché la Tendopoli ormai è fatiscente. Il Ministero ha fatto una nota che in un certo senso dovranno sostituire queste tende. Allora erano partiti, vi dicevo, in 400 più o meno, ora sono 1400. Quindi più che triplicati. Sì, sì. Je sais pas si je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre, tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné. Per mesi quando arrivano iniziano ad arrangiarsi, a dormire a terra, a dormire su cartoni, su cose. Poi in qualche modo la provvidenza riusciamo tramite degli albergatori, il carcere ci ha dato dei materassi e siamo riusciti ad aiutarli a portando questa roba. Ma ancora tuttora sia alla Tendopoli che qui alla fabbrica, sempre accanto alla Tendopoli e alle baracche, sono centinaia che dormono senza un materasso, senza così, con qualche coperta. Ora il Ministero ha dato altre coperte. Comunque sono solo uomini o anche famiglie? Sì, sì, ci sono famiglie. Sono dei bambini anche? Ci sono dei bambini, ci sono due bambini che sono nati nella Tendopoli l'anno scorso. Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Z Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Chi vuole alzare la tensione? Chi ha compiuto queste aggressioni e perché? Ci siamo fatte tante supposizioni. Qualcuno dice la mafia perché deve arrivare qualche carico, qualche cosa qui nel territorio, allora cercano di spostare l'attenzione sulla zona Tendopoli, perché c'è stato un rincorrersi di notizie false. Cioè, noi da giorni siamo tempestati da telefonate, da persone del paese. Sono venuti in chiesa a prendersi dei parrocchiani perché avevano detto che c'era il coprifuoco, cose assurde. C'è un braccio di ferro in questo momento tra le forze dell'ordine che cercano di mettercela tutta per evitare il peggio. La prefettura che ha alzato l'allerta al massimo. Quindi la Tendopoli è presidiata dalle forze di polizia e dei carabinieri? In questo momento, dal 27 in poi sì, dal 27 in poi si hanno alzato l'attenzione al massimo, anche perché loro stessi si rendono conto che stanno cercando di fomentarli e di creare la rivolta. Perché ma queste persone straniere, che sono evidentemente mal tollerate, non sono le stesse persone che vengono utilizzate come lavoratori? Come nel 2010 è successo che quest'anno c'è stata un'annata pessima. Uno degli altri motivi che si pensa è attirare l'attenzione su questo, sul discorso dell'agricoltura qui da noi, che è messo anche in ginocchio e quindi non si lavora. Purtroppo questi ragazzi che vengono, sì, la maggior parte, quasi tutti, ma forse non ho idea se proprio tutti, ma una buona parte lavora nei campi, però purtroppo per il problema che loro hanno anche una situazione di irregolarità come documenti, non vengono pagati con contratto, ma vengono sfruttati, tra virgolette, nel lavoro nero. Io vi dico una vicenda: noi abbiamo un ragazzo che tramite un'associazione libera che si occupa di alcune terre confiscate ci ha dato per la squadra queste borse di lavoro per i nostri ragazzi, per alcuni dei nostri ragazzi. c'était nos rêves. Cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir. Noi per tenerli, come dire, sulla retta via, abbiamo grandi difficoltà perché i comuni, specialmente quello di San Ferdinando, stenta a fare le carte d'identità, a dargli i documenti ai ragazzi. E le poste, per esempio, la posta non gli fa il banco posta perché non ha il codice, la tessera sanitaria, cioè quello di plastica, il codice fiscale plastificato. E allora c'è un rimpallo tra le varie... come tra gli enti e quindi alla fine dei conti sti ragazzi purtroppo lavorano spesso, lavorano a nero, anche se i contadini in questo momento si sono messi in riga perché ci sono delle multe e delle sanzioni altissime, quindi quasi nessuno li prende a nero, però c'è sempre chi è complicatissimo, guardate, è complicatissimo. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles, mâche un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre, qui te laisse croire que le monde est noir, mais trop tard. Perdu dans un brouillard, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Stop, je tisse des liens. E volevo chiederle infine della squadra del Coa Bosco, no? Che lei si è inventato proprio dopo le rivolte del 2010 per integrare un po' questi giovani africani, no? Sì, non è proprio stata un'iniziativa soltanto mia, ma è stata piuttosto di alcuni ragazzi, bambini della parrocchia stessa, quindi un po' era l'idea di come poterli aiutare e da tutti un po' è nata l'idea di dire facciamo che loro stessi, come dire, ognuno venga valorizzato per quello che sa fare. È anche un motto del nostro vescovo Bux, che è morto, che lui ci diceva: un territorio può rinascere se si guarda intorno e riparte dalle proprie potenzialità. Allora noi lì alla Tendopoli in quel tempo non c'era nient'altro che sti ragazzi, sti giovani, che abbiamo iniziato a sondare cosa sai fare, alla fine chi sapeva cantare, avevamo fatto il coro gospel, e chi sapeva giocare, abbiamo tirato su sta squadretta che ha avuto, sembrava una cosa facilissima, invece tuttora è qualcosa di, siamo entrati in un mondo che io stesso non conoscevo, il mondo del calcio ha dei lati oscuri che non sono tremendi, anche perché ci sono delle leggi interne che un po' sono sempre, fomentate dal discorso economico, e quindi ci sono tanti interessi. Invece noi siamo una squadretta così, ora in seconda categoria, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato, però non abbiamo uno sponsor che ci sostenga come sponsorizzazione, come le altre squadre. Là tu réalises que tout n'est pas si rose, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres, t'as commis des fautes, chacun ses défauts. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent. Stop, je tisse des liens, j'en perds le fil. Bâtis ma vie, construite dans le vide. Les gens me disent. Tra l'altro avete avuto anche lì degli, ci sono stati degli episodi di razzismo, di aggressioni, no, verso la squadra. L'anno scorso, se si può chiamare, non so, con questo seguito mi sa che qualcosina c'è, però certamente non voglio, perché c'è tanto amore in Calabria, tanta solidarietà, che poi questi piccoli episodi che riducibili a poche persone fanno sì eco, però non sono, come dire, il volto della Calabria. Anche un difensore l'avete perso perché ha trovato lavoro, finalmente è andato al nord. Sì, nostri, ma non uno. Noi abbiamo ceduto perché pensavamo che potesse fare un po' carriera il nostro portiere, che era fortissimo ed è andato in una squadra dell'Acri. Altri giocatori stanno giocando in Germania. La vecchia squadra ha fatto, come dire, la prima squadra, molti della prima squadra sono in Sicilia, si sono un po' ambientati, cioè, come dire, hanno fatto un passo avanti, perché da noi vengono nella prima fase, quando ancora devono fare il permesso di soggiorno, e quindi come integrazione tra il lavoro e lo sport, noi possiamo presentare alle commissioni delle giustificazioni per dire che questi ragazzi si stanno impegnando, non sono dei fannulloni, e allora questo li aiuta ad arrivare al permesso di soggiorno. Dopo, una volta che hanno il permesso di soggiorno, scelgono se si trova qualche lavoro, borsa lavoro per loro, rimangono con noi, altrimenti cerchiamo di organizzargli di trovare qualche lavoro fuori, e molti, vi dicevo, sono in Germania, alcuni sono a Cattolica. Priorità nostra sono tutti i ragazzi, la squadra era un messaggio che facesse, come dire, eco al grido degli altri ragazzi qui alla Tendopoli, che dormono a terra, che mancano di tutto. La squadra, non ci serve uno sponsor per la squadra, nel senso solo per la squadra, a noi serve qualcosa che possa aiutare questi ragazzi ad integrarsi, e allora abbiamo sempre chiesto delle borse lavoro. Anche servirebbe sì uno sponsor per sostenere la squadra, perché diventasse un qualcosa che possa camminare con i suoi piedi, perché molti ragazzi noi li perdiamo perché non abbiamo da dargli magari 100 euro al mese, e quindi loro non possono rimanere con noi. Chi riusciamo a trovargli il lavoro rimane, ma tanti poi devono partire e magari affrontano altre difficoltà. Se ci fosse un vero sponsor, qualcosa che facesse di questa squadra un qualcosa di stabile, di forte, allora avremmo un gruppo nel senso stabile, si potrebbe fare un progetto a lungo raggio e tante altre cose. Invece noi purtroppo soffriamo questa precarietà, perché oggi i giocatori ci sono, come noi finiamo la borsa lavoro non possiamo tenerli, bisogna che li cediamo, bisogna che gli diamo un'opportunità di lavoro, e allora il volto della squadra cambia ogni anno, ma anche all'interno dell'anno, durante l'anno perdiamo i migliori. Grazie a Don Roberto Meduri. Il tempo a nostra disposizione termina qui. Io vi do appuntamento a sabato prossimo con altre storie di cucina, immigrazione e identità, sempre sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. A sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory of love.